9. Occhio solo Fred locchiava le mignotte da dietro il banco della taverna. Era in un cortile di Tottenham Court Road, in mezzo a quello che chiamavano, con rispetto parlando, l'isolato dei tagliagole di Soho. Da 20 anni, pure se priva di insegne, portava il suo nome, Taverna Occhio Solo, cioè da quando Fred era sbarcato per sempre da gusci e legnacci sopra la terraferma. E con i 4 denghi che aveva guadagnato tra paghe, ruberie e contrabbandi, s'era comprato quella stamberga per diventare un poldo bigio e ciucco in santa pace e si fottesse l'acqua salata. L'affare era ganzo, il gagno sicuro, il trucciolo in saccoccia allora non faltava e la ciangotta ce l'aveva giusta per ispirare il rispetto. Il resto l'avevano fatto l'occhio guercio, che uno buono era abbastanza per locchiare quello che si doveva locchiare, qualche sfregio a mescolare i tratti e l'espressione, la ghigna storta e i 4 zughi rimasti nel truglio, marci affilati come quelli di un pescecane morto. S'era ritrovato oste. Altri tempi, poi l'età bigia, loffia, scannata e bastarda aveva irrancidito ossa e budella, costringendo Fred a mettersi sotto padrone, un malcico merdoso e lezzo che conosceva da quando era fringuello e si chiamava James, ora Dread Jack. Teneva una ganga di soma infami, zuffa e zavagli, tutto il giorno a glutare gin e a riempirsi le gaioffe, le palandre, i ridenghi, frutto ritagli, infamate e borseggi. Finiva un anno di merda, ne cominciava un altro, tanto non cambiava mai una sega, e se cambiava era in peggio, questo pensava Occhio Solo. Così la sbronzeria era già tamagna assai. I soma di ganga di Jack biascicavano, palpavano e glutavano gin, glutavano, palpavano e scaracchiavano dai loro trugli immondi. Le mignotte, nonostante il freddo l'isca infame, portavano corpetti di pelle, quasi tutte senza indossare altro di sotto, con le granfie e le schiene nude e le minne ben in vista e gonne larghe, a proteggere il mestiere. Le mignotte passavano da un tavolo all'altro, con il gin e la mercanzia saltellante, a ogni palpata uno scricchio acuto e sguaiato, e poi gufavano, gufavano forte quando uno dei lezioni di Dread gli affondava la biffa dentro le minne. Insomma, Occhio Solo da dietro il banco non aveva che da versare gin e locchiare carne, più o meno fresca. Dread Jack stravaccava sopra una panca appoggiata a una parete. Di lui si prendeva cura a Betty, detta la Mangiona, insieme a Ellie, che non aveva un braccio, ma in compenso la natura le aveva donato 2 minne spaventose. Altri soma di ganga sedevano intorno, zavagli e tronfi e sguainosi come si competeva a poldi di così infimo rango. E via, rutti da orchi, scaracchi e bestemmie. La mossa divenne interessante quando all'improvviso il truglio di Tom, detto Trombone, emise un rantolo come di orso ferito. Trombone Tom, scassaporte della ganga, se ne stava un po' appartato a un altro tavolo, a spassarsela con Mary la culona, già da qualche tempo. Com'è come non è, gin, arrazzo e tutto quanto, la salsa che gli scorreva nelle vene era andata tutta alla zucca e Trombone, dopo quel raglio, aveva ribaltato la gonna sopra la testa di culona. Le aveva infilato la fava e la sbatteva da dietro. Ora, questa cosa, dopo qualche sguanata di commento iniziale, aveva riportato una strana specie di calma. Le donne non scricchiavano più, qualcuna semmai gufava divertita, ma in silenzio, e i poldi locchiavano assorti come a teatro o alle recite di strada. Mary gemeva sguaiata da sotto la gonna, Trombone ragliava e affannava come quell'orco che era. Occhio Solo, dietro il banco, si era arrazzato un bel po' e aveva cominciato a menarselo lì sotto. Dio scannato, che marciume le tabigia, che nessuno più ti alliscia la fava. Ecco allora che proprio nel bel mezzo dello spettacolo e grazie alla calma trista che era piombata nella taverna, d'un tratto Occhio Solo cominciò a snicchiare una ciangotta forte e stentorea. Veniva dalla scuraglia alla fuori, in strada. Fred drizzò gli snicchi, unico a interessarsi alla cosa nonostante l'arrazzo. «Rapido come un falco, l'indiano cala sopra il palco!» Il suono delle ciangotte si avvicinava. «E con arco e freccia sgagna la feccia!» Fred snicchiò un tremestio di passi rapidi e poi locchiò la porta a spalancarsi di botto e apparire un poldo con una biffa esaltata da non crederci, che portava un ciuffo da pazzo invece dei capelli e una mezzaluna intarsiata sulla fronte, mentre esclamava con la medesima ciangotta: «Mai con l'ascia, che l'imperatore ti sfascia!» Giusto il tempo per Occhio Solo di inguattare la biffa sotto il bancone, perché quel poldo pazzo aveva scagliato l'arma dritto davanti, mandandola a conficcarsi sulla pancia di una botte proprio alle spalle di Fred. Seguì uno scriccio belluino, come un grido di battaglia, e dietro di lui presero a entrare malcichi pittati e forniti di mazze, lische e veri archi e frecce pronti per l'uso. Per la ganga di Dread Jack la sorpresa fu da smerdo e la busseria che ebbe inizio di proporzioni epiche, sebbene in un'unica direzione. I malcichi cacciavano mazzate a tutto andare su biffe e trugli, mentre l'imperatore della mezzaluna andava a passi spediti a riprendere l'ascia piantata in mezzo alla botte e saliva in piedi sul bancone, proprio sopra la testa inguattata di Occhio Solo. Lì giunto, tronfio e trionfante, si mise a locchiare la scena con gaudio tamagno. Trombone Tom, la fava ancora di fuori, si era preso subito una frecciata verso quelle lande e guaiva e latrava come un cane. Le mignotte, culona più di tutte, scricciavano come aquile e si raggruppavano in zone meno battute da fendenti, ceffoni e mazzate. Insomma, di ganga di Jack, Ciucchi e Bafagni avevano provato a metter granfia alle lische, ma i poldi pazzi gli erano stati subito addosso e avevano ridotto biffe e trugli a maschere deformi, con salsa che colava ovunque e zughi, anche buoni, che saltavano fuori come scaracchi. Una disfatta. Fu allora che, dal suo piedistallo, Ciuffettone con l'ascia richiamò i presenti scagati e fraccati con gran sbracciate e una ciangotta mielosa. «Signore, signori, prego, prestate attenzione! Io, Tau Ahem Ben Zankaldar II, imperatore della nazione Mohawk londinese, dichiaro, in via ufficiale, aperto l'anno Mohawk. Da ora dunque siete tutti raccolti sotto la mia benigna ed equanime autorità, rispettando la quale non potrà che tornarvi del bene e una vita lunga e priva di affanni. Siamo venuti a informarvi affinché non abbiate a manifestar sorpresa per alcuni, diciamo, cambiamenti che da oggi stesso abbelliranno l'esistenza nel nostro vicinato». Dread Jack, che s'era stampato alla parete con tre mignotte a fare da scudo, fece alcuni passi allo scoperto. Una lisca bella lunga sguainata in una granfia. Tutto paonazzo nella biffa, tuonò con la ciangotta roca e incazzosa. «E chi diavolo saresti tu, lezzone merdoso che vieni a sparare sguanate in casa d'altri senza rispetto? Salta giù che ti rivolto il culo come un paio di palandre!» «Lo sapevo! Ecco il grande Dread!» disse l'imperatore. E prima di finire saltò di sotto e piantò l'ascia sulla zucca di Jack, che stramazzò, lungo disteso. Dopo alcuni scricci di femmine, piombò il silenzio in tutta la taverna. Anche i soma di quel poldo scragnato che si dava dell'imperatore parevano sorpresi e impauriti. Ciuffone II allungò una pedata nelle trippe di Jack, che tirò gli ultimi nel lago di salsa dove si trovava. Poi gli si mise a cavalcioni e con un colpo secco lo scalpò. Tutti lo occhiavano scagati. Quello sbandierò la cotenna di Jack. «Signore, signori, da oggi lavorate per me, è tutto, felice anno nuovo!» Diede un paio di colpi con la granfia aperta sopra il banco e aggiunse: «Vecchio, puoi uscire da là sotto, i clienti hanno bisogno, noi andiamo!» Si rivolse ai soma di ganga e a passi rapidi, uno dietro l'altro, come erano entrati, uscirono. Occhio Solo Fred, mentre sporgeva guardingo la biffa sopra il bancone, si ritrovò a pensare che forse sì, stavolta l'anno nuovo sarebbe stato diverso. Un anno indiano.